Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Ma ero un po' stufato dell'Italia. Non mi piaceva la mancanza di trasparenza, la mancanza di meritocrazia. Ne offrì gratuitamente ad un'azienda inglese nel settore alberghiero e iniziai a lavorare gratis e imparai il mestiere. Io avevo questa idea di Londra come un po' la terra delle opportunità. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. In apertura la seconda cartolina dall'estero che ci ha inviato Alberto Scarsi, nostro ascoltatore che negli ultimi mesi ha intrapreso un personale viaggio nel cuore dell'Europa per intervistare i nuovi espatriati italiani. Alberto ha raccolto le sue interviste su un canale YouTube, Storie di Italiani all'estero, The Italian Job. Avete appena ascoltato un frammento della storia di Francesco, emigrato da Pistoia a Londra, dove ora è capo risorse umane per un'azienda tedesca. La frase della settimana è copyright del vice ministro degli esteri Bruno Archi, che ha la delega per gli italiani nel mondo. Archi ha definito la nuova mobilità internazionale un fenomeno che esula dai tradizionali strumenti consolari di rilevamento e assistenza, nei cui confronti è necessario un approccio innovativo. Il moderno espatriato, per ragioni professionali o di studio, dice Archi, spesso nemmeno si registra. Occorre individuare meglio la sua figura e la portata del fenomeno, che già ci appare numericamente significativa. Noi invitiamo la Farnesina a fare presto, come rivela una ricerca che vi presentiamo tra poco, è ormai boom di italiani in fuga. E non sarà forse che si emigra dalla penisola anche perché, per dirla col governatore di Banca Italia Ignazio Visco, in Italia studiare conviene meno? Secondo Visco, per i laureati under 30 la possibilità di essere occupati è pari a quella dei diplomati, 73%, e superiore di soli 13 punti a chi ha la licenza media. Chiosa Visco, il livello di istruzione dei nostri giovani è distante da quello degli altri paesi avanzati, questo è grave. E denuncia, non aiutano le condizioni del mercato del lavoro, caratterizzato da scarsa mobilità geografica, ridotta dimensione aziendale e difficoltà ad adottare adeguati schemi di selezione. C'è dunque chi va molto lontano per costruirsi un futuro. Oggi ci trasferiamo nel sud-est asiatico. Mi propongono la posizione di design leader o art director, come si direbbe in Italia, che per un'azienda di design è una delle posizioni di più alta responsabilità. Tommaso Bistacchi, 31 anni, è design leader a Bangalore in India. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. All'estero mi mancano solo il cibo e il calcio, così un articolo del quotidiano svizzero Tages-Anzeiger ha riassunto recentemente le centinaia di storie dei giovani espatriati italiani. Storie attinte dal nostro blog Giovani Talenti, che potete trovare, lo ricordiamo, all'interno di radio24.it. Intanto, secondo il settimanale L'Espresso, emigrare per gli italiani è diventata una consuetudine. Dal 2007 a oggi il numero dei residenti all'estero è aumentato del 20%. A scappare sono soprattutto i 35-44 anni. Le regioni che perdono più cittadini sono Campania, Sicilia e Lazio, ma è al nord che l'esodo si fa frenetico. I trentini in fuga a settembre erano il 35,5% in più rispetto al 2007, i lombardi il 35%, i liguri il 32%. E per la Svimez, negli ultimi 20 anni sono emigrati dal sud a 2,7 milioni di persone, continua la fuga di giovani e cervelli dal mezzogiorno. Il 64% dei meridionali che nel 2011 si sono trasferiti al centro-nord aveva un titolo di studio medio-alto. Dal 2002 al 2011 i meridionali laureati emigrati all'estero sono stati oltre 20.000. Boom, infine, degli occupati residenti ufficialmente al sud, ma con un posto di lavoro al centro-nord o all'estero. L'anno scorso erano 156.000. E c'è stato un forte aumento di espatri dall'Italia nell'ultimo anno e mezzo, a denunciarlo una ricerca che 4 università europee hanno lanciato sul fenomeno dell'espatrio dei cervelli dall'Europa del Sud e dall'Irlanda. Lo studio è coordinato dal Global Governance Program dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. In esclusiva radiofonica Giovani Talenti, i primi risultati ai nostri microfoni la docente Anna Triandafillidou. Come paesi di destinazione all'interno dell'Europa, diciamo che sicuramente la Germania e il Regno Unito sono quelli più importanti, però un ruolo importante anche la Svizzera e la Francia. È interessante che come paesi fuori dall'Unione Europea ci sono gli Stati Uniti e il Canada e poi anche paesi con i quali ci sono, diciamo, rapporti storici. Quali sono i paesi che maggiormente soffrono di brain drain tra quelli presi in considerazione? Direi che forse il Portogallo e la Spagna sono quelli che dalla nostra inchiesta sono usciti quelli più toccati. Avete condotto un'inchiesta su un campione di 8.000 persone, questo è da specificare. Sì. E sull'Italia invece cosa ci dice? Cioè, effettivamente c'è un brain drain dall'Italia? Sì, c'è. Purtroppo c'è. La gente che se ne va sono in grandissima parte gente laureata o più. diciamo, gente laureata con un master, con un PhD, insomma altamente qualificata. Un 35% sono sotto i 30 anni e un 50% sono tra i 30 e i 45. Dove vanno soprattutto gli italiani? La destinazione che è uscita più comune è la Svizzera con un 15% e dopo gli Stati Uniti. Dentro l'Unione Europea è la Francia, la Germania e il Regno Unito. Perché espatriano gli italiani? Quelli che partono non necessariamente sono senza lavoro, anzi la maggior parte il lavoro ce l'hanno, però vedono che non è un lavoro che apre le porte di una carriera, di una stabilità, di una crescita professionale e diciamo anche personale su un piano familiare. Una parte consistente delle persone che se ne vanno sono ingegneri, sono gente che lavora nell'ambito dell'economia, della finanza, del business, un pochino meno in cosiddette scienze sociali. Noi abbiamo guardato un po' anche diciamo l'ambito familiare di queste persone, in genere sono persone sposate con figli, più che altro uno o due, e con moglie o mariti che anche loro sono altamente qualificati. Un dato molto interessante è che il 40% di quelli che hanno partecipato nel nostro questionario se ne sono andati dall'Italia negli ultimi 18 mesi, quindi c'è una forte crescita. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta nella lontana India, una delle nuove frontiere dell'emigrazione di talento italiana. Paese non semplice, soprattutto culturalmente, ma in grado di offrire interessanti opportunità. Andiamo allora a scoprirle insieme al protagonista della puntata. Nome: Tommaso. Cognome: Pistacchi. Età: 31. Città di origine: Milano. Studi: Politecnico di Milano, design. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2013. Per andare dove? In India, a Bangalore. Perché? Un'offerta che non potevo visitare. Qual è il lavoro svolge attualmente? Art director e design leader di una startup. Dove? Bangalore. Tornerai? A Natale, che è il panettone e il patè. Ciao, io parto mercoledì per Bangalore, India. Parto con in tasca un visto per 2 anni, un contratto a tempo indeterminato, un portatile e tanta voglia di cominciare una nuova avventura. Tommaso, così ti sei presentato una domenica di aprile alla casella di posta giovanitalenti@radio24.it. 6 mesi dopo, rifaresti tutto da capo? Assolutamente sì, passo dopo passo. La tua storia inizia a Milano, capitale italiana del design, e molto meno invece dei giovani designer, come vedremo tra poco. Diploma liceo classico, poi politecnico, facoltà di design. Quale passione ti porta a studiare in quel settore? L'idea di creare qualcosa di bello e utile, vederlo nascere nell'immaginazione sulla carta per poi essere prodotto, venduto e apprezzato da qualcuno è qualcosa che mi fantastica da sempre. E tra le esperienze durante gli studi, anche uno stage in Danimarca e un Erasmus in Olanda. Hai mai avuto rimpianti per non aver studiato all'estero? E se tornassi indietro, ti iscriveresti ancora in una università italiana? Sì, come siamo di poi, un grosso rimpianto è stato quello di non aver completato gli studi in Olanda dopo l'Erasmus e di essere tornato in Italia per finire la specialistica. Devo ammettere che allora ho avuto paura, mi si era aperta una porta e non l'ho attraversata, sento di aver perso un'occasione. Poi però ti sei rifatto con gli interessi, ti sei laureato nei 5 anni previsti, poi si impone ovviamente la scelta di avviare una carriera professionale e qui inizia la tua personale via crucis per l'Italia, con offerte di lavoro che non esiti a definire mortificanti. Trovi impiego subito dopo la laurea in uno studio di progettazione, però a quali condizioni contrattuali? Le condizioni economiche di un primo impiego, in particolare negli studi professionali, sono decisamente basse, non ci si vive con 4 soldi. È un impatto molto duro che smorza e mette subito un freno alla creatività e freschezza. Presto scopri però come le condizioni di quel lavoro fossero in realtà le stesse di qualsiasi studio milanese e così pensi: se devo lavorare 14 ore al giorno per guadagnare una miseria, lo faccio per me. E nel gennaio 2007 ti metti in proprio come freelance, sull'onda di quale riconoscimento tra l'altro? Quell'anno ero tra i 6 finalisti più giovani e l'unico italiano di un importante concorso internazionale promosso dalla Benetton. Questo da una parte è stato un ottimo biglietto da visita e mi ha dato una grande copertura mediatica e dall'altra anche mi ha fatto capire che dovevo sfruttare al massimo la freschezza delle mie idee e la passione che mettevo nel mio lavoro. Attenzione però a una cosa, perché la vita da freelance si compone di 2 tasselli. Il lavoro come furniture design e quello di grafico. Il primo rappresenta la tua vera passione, ma rende pochissimo. A quale assurde condizioni ti sei trovato a dover lavorare? Fare grafica e web design era un modo per portare a casa la pagnotta a fine mese. Col design di prodotti invece si viene pagati a royalties, quindi si vedono i risultati economici del lavoro da un anno e mezzo. Cioè ti pagavano dopo un anno e mezzo, ho capito bene? Sì. Invece la vita da grafico è in teoria quella più remunerativa, in teoria almeno, ma in Italia pagano tardi e chiedono anche lo sconticino, come se il lavoro fosse un hobby. Allora, a quanto ammonta lo sconticino che ti hanno chiesto l'ultima volta, Tommaso? 40-50% a lavoro terminato. No, ma gli aneddoti sui pagamenti e sconticini tra i grafici e web designer si sprecano. Sì, è come se si fosse sempre nel periodo di saldi, diciamo. Il paradosso... Mettiamola così, questa è l'Italia. Ridiamola per non piangere. Eh sì. Il paradosso è che il tuo lavoro principale da furniture designer continua a darti grandi soddisfazioni, però vinci concorsi, esponi, sviluppi progetti importanti e a quel punto decidi di rimetterti in gioco rispondendo ad annunci di lavoro. La situazione si fece da subito disarmante, annoti. Allora, dopo anni di esperienza e talento riconosciuto, qual era il massimo che potevi strappare a Milano? Mi è stato proposto di tutto, da contratti a progetto ridicoli, lavori a tempo pieno ma con la partita IVA, periodi di stage non pagati. Per farti un esempio, paghiamo più noi designer, giovani designer indiani qui da noi, piuttosto quanto mi è stato offerto in Italia con 6 anni di esperienza e diversi riconoscimenti internazionali. Tommaso, ma Milano non sarebbe in teoria una delle capitali mondiali del design? Come ci è arrivata? Sfruttando le sue menti più giovani e creative? Oggi parlare di Milano come capitale del design è anacronistico. Un buon termometro di questo è il declino del Salone del Mobile, trasformato in una disorganizzata settimana di movida a cui nemmeno il comune dà più attenzione. Gli appuntamenti importanti ormai sono Londra, Parigi, Francoforte. Torniamo alla tua storia, tu cominci a guardarti intorno anche all'estero. 2 abboccamenti tra Svezia e Olanda non vanno a buon fine, poi ad aprile arriva una email dall'India, totalmente inaspettata. Ti cercano loro. Tu pensi a uno scherzo? E invece di cosa si trattava? Quale posizione ti offrivano e a quali condizioni? La buffa è che onestamente ci ho messo un po' a capire che era una proposta concreta e mai avrei pensato all'India. E mi propongono la posizione di design leader o art director, come si direbbe in Italia, che per un'azienda di design è una delle posizioni di più alta responsabilità. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. È così che ad aprile, dopo un colloquio via Skype, Space Matrix, terza compagnia di architettura e interior design in Asia, ti assume. Destinazione Bangalore. Arrivi come design leader, sei il numero 2 di una startup che a fine anno avrà 40 dipendenti. Ci spieghi in concreto quali responsabilità ti ha affidato a soli 31 anni un paese emergente come l'India? Le responsabilità vanno dall'impostazione di tutta l'immagine aziendale, progettare le collezioni di mobili e controllare qualità e processo produttivo, fino a fare il frontman nelle relazioni con i clienti nazionali e internazionali. Oltre a questo, mi hanno dato carta bianca per creare il team di progetto, assumere giovani designer indiani e collaborare con ragazzi in Europa. Fare in Italia quello che sto facendo qui sarebbe un'utopia, scrivi senza incertezze. Tommaso, quali freni strutturali, quali rendite di posizione hanno affossato la freschezza, la creatività e in ultima analisi il futuro dei giovani designer in Italia? In Italia a me è passato il concetto che fare un mestiere creativo sia come un hobby. Sono convinto invece che sia la linfa vitale di un paese che vuole innovare e crescere, ma... Per esempio, il problema inizia all'università, al Politecnico 40 studenti per classe, 10 classi all'anno, questo vuol dire non formare dei designer e coltivare la creatività, ma creare bassa monovalanza. In Olanda eravamo in 5 in classe. In due parole, com'è stato l'approccio con l'India? È stato uno shock culturale per te? Diciamo che l'impatto con l'India non è facile. Bangalore comunque è una città molto moderna, è chiamata la Silicon Valley indiana. Si parla per strada l'inglese invece che l'hindi o il dialetto del Kannada. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Secondo me è un paese che si è chiuso nei propri problemi e ha perso tanto la voglia di sognare, non riesce a guardare al futuro con fiducia e freschezza. Un consiglio, non lo so, non ho la bacchetta magica o la soluzione pronta, ma sicuramente bisogna ripartire dalle basi e ritornare a lavorare su ciò che è stata l'eccellenza italiana, creatività e innovazione. Bisogna ripartire dai giovani e tornare a pensare in grande, a sognare e pensare a far sognare. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Tommaso Bistacchi, 31enne design leader per la Live Space a Bangalore in India. Tommaso V arriva dopo una laurea al Politecnico di Milano, seguita da una lunga trafila di lavori nella penisola. Inizia con una partita IVA che maschera un'assunzione vera e propria, poi la decisione di mettersi in proprio. Tommaso scopre la dura realtà di un'Italia dove i pagamenti arrivano sempre tardi e qualcuno vuole pure lo sconto. 6 mesi fa la sorpresa, una email dall'India lo invita a un colloquio. Poche settimane dopo è in volo verso Bangalore, dove ora è numero 2 della sede locale del gruppo asiatico Space Matrix. Fare in Italia quanto sto facendo in India sarebbe stata un'utopia, denuncia Tommaso. Ci raggiunge ora in linea Giacomo Cavalleri, designer e direttore creativo ideatore di Made in Bergamo e Kids Revolution. Buon pomeriggio. Buonasera. Giacomo, tra poco arriviamo a una sorpresa che ti riguarda da vicino e che ti collega per una casualità alla storia di Tommaso. Anche tu, premettiamo, sei designer. Per cominciare però ti chiedo subito un commento a caldo su quello che abbiamo appena ascoltato. Ad oggi l'unica possibilità per un giovane designer di talento italiano è emigrare, ti chiedo. No, forse rimanere anche in Italia, ma ci vuole tanta pazienza, talmente tanta che a volte non ce la si fa più e allora si va via. Che job, forse avrebbe qualcosa da invidiarvi. La tua storia professionale ricalca nella sua internazionalità quella di Tommaso. Inizia a Bergamo, la tua base, dopo esserti diplomato a Londra, poi ampli le tue collaborazioni fino a New York, torni in Italia e dopo 3 anni lanci un progetto dedicato al mondo dell'infanzia, Kids Revolution. In mezzo molti lavori e collaborazioni, in questo tuo pellegrinaggio, definiamolo così, creativo, che idea ti sei fatto su come rendere l'Italia un paese attrattivo inserito in un contesto internazionale di circolazione dei talenti? Sicuramente un ritorno alle origini di quello che siamo stati sempre riconosciuti nel mondo, cioè non siamo delle corporation, ma siamo delle piccole realtà manifatturiere. Parlo sia del mondo del design che della moda, anche proprio dei prodotti comuni. Perciò smettere di avere questo atteggiamento American style che non paga in Italia perché non c'è la cultura, ma ritornare alla bottega. Questo secondo me è l'unico modo per rilanciare il nostro paese. Arriviamo alla sorpresa, perché poche settimane fa, mentre stavamo organizzando la puntata, è arrivata la notizia che ha sparigliato tutto. In un batter d'occhio ho dovuto fare le valigie per Singapore o comunque l'Indonesia, trasferendoti là per un lungo periodo, ed è proprio dall'Indonesia che ci parli oggi. Anche tu infatti sei emigrato nel sud-est asiatico. Non potevo non accettare, mi hai detto al telefono. Allora, quale posizione ti hanno offerto e perché è stata un'offerta a cui non si poteva proprio dire di no? Fare il freelance o iniziare un percorso di startup in Italia è veramente un percorso, un calvario, perché non riesci mai a capire quando riuscirai a sbocciare. Mia moglie mi ha spinto a mandare un'email, un annuncio che ha trovato in Asia. Io cercavo più che altro il Middle East, la Raffles Institute, è un institute di Singapore, che ha però diverse basi in tutta l'Asia, persino anche in India. Hanno visto il mio profilo, mi hanno mandato un'email e mi hanno detto: hai subito un Skype account, ti vogliamo parlare. E cosa ti offrivano in breve? Mi stanno offrendo la possibilità di insegnare multimedia a questi ragazzi i nostri dopo liceo, per prepararli al portfolio per accedere poi ai corsi di BA, di baccalaureato. Non potevo veramente non accettare, un'esperienza che va anche a arricchire tutti i progetti che comunque continueranno in questo momento, anche di mia assenza fisica, ma ormai con internet sei ovunque, no? Tommaso, hai una domanda per Giacomo? Sapevo che eri stato a New York, volevo capire cosa invece ti aveva portato a tornare in Italia nel 2010. Ne parliamo fuori onda, no, scherzo. Sostanzialmente quello che ha toccato tutto il mondo, la crisi economica dopo la caduta della Lehman Brothers, è stato una botta incredibile. Però non avendo la green card tu in America sei comunque instabile, perciò io e mia moglie abbiamo deciso di ritornare in patria, forse un grosso sbaglio, ma ci ha arricchito tantissimo. Giacomo, qui mi inserisco, perché in effetti poi in Italia un tentativo di muovere le cose l'hai fatto, fondando, esatto, Made in Bergamo, network di creativi bergamaschi, che vuole porsi come risposta a un sistema culturale e creativo locale fermo a delle vecchie concezioni di fare e produrre. Allora, come è andata? Avete vinto la sfida? Diciamo a metà, perché la risposta dei creativi è bellissima. Cioè, c'è un gruppo veramente molto affiatato che risponde alla chiamata alle armi quando dico ok, facciamo un evento, andiamo. E soprattutto abbiamo trovato degli imprenditori molto illuminati che ci stanno aprendo diverse porte. Però, ragazzi, non si può fare solo assistenza sociale, bisogna anche guadagnare, no, nella vita? Completamente d'accordo, e bisogna avere anche buone prospettive di crescita. Grazie a Giacomo Cavalleri. E domanda diritto a Tommaso Bistacchi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Mettersi in gioco e riappropriarsi del proprio futuro. Bisogna rompere con un sistema che fa tutto per tappare le ali ai giovani. Vedendo le cose in prospettiva, all'estero è sicuramente un'esperienza che allarga gli orizzonti e arricchisce a livello personale e professionale. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un ingegnere geotecnico alla AMEC di Shrewsbury in Gran Bretagna, scadenza per il CV 7 dicembre, info su amec.com. Un economista della difesa per la NATO a Bruxelles, scadenza per il CV 12 novembre, info su nato.int. E infine un chimico coordinatore di laboratorio al FIM, Institute for Molecular Medicine di Helsinki in Finlandia, scadenza per il CV 31 ottobre, info su fim.fi. E siamo giunti ad Expat, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi riapriamo la nostra finestra mensile sulle lettere che inviate a giovanitalenti@radio24.it. In questi anni ci è capitato di narrare storie di espatrio in presa diretta, come quella di Marta, giovane professionista che ha deciso di seguire il marito a Detroit e che, dopo averci raccontato i mesi travagliati che hanno preceduto la partenza, è tornata a scriverci, questa volta con informazioni pratiche per le donne che intendono seguire il suo percorso. Finalmente la proposta in cui tanto speravamo si è concretizzata. Dopo l'ennesima trasferta negli Stati Uniti, a gennaio 2013 mio marito rientra con una bella sorpresa. Proposta di contratto di espatrio in mano e una ventina di giorni per riconsegnarla firmata o rigettarla. Bene, anno nuovo, vita nuova, in tutti i sensi. Poco tempo per parlarsi, poco tempo per riflettere, ma ogni lasciata è persa, quindi accettiamo. E così comincia la preparazione. Mille cose a cui pensare e nessuno che ti sappia esattamente dire cosa serva a sapere per organizzare un espatrio. Cercherò di andare con ordine, partendo dalla cosa più importante. Come prima cosa, è bene sapere che di visti per gli Stati Uniti ce ne sono a bizzeffe. Tutto dipende dalla motivazione per la quale ci si trasferisce. Intercompany transferee, tirocinante, studente, giornalista, eccetera. Se prevedete di trasferirvi con coniuge al seguito, sappiate che sono pochissime le tipologie tra le numerose esistenti che consentono alla vostra dolce metà di lavorare legalmente negli Stati Uniti. Non solo, ma anche qualora otteniate una di queste tipologie di visto, è bene sapere una cosa molto importante. Quando si dice che un certo visto consente al coniuge di lavorare, si omette un'informazione importante, riassumibile in tre sole lettere: EAD, Employment Authorization Document. Solo con questo documento il vostro coniuge potrà effettivamente e legalmente accettare un lavoro negli Stati Uniti. A dispetto di quanto riportano i commenti su numerosi forum di expat, ottenere l'EID non è affatto complicato, solo un po' lungo e dispendioso, ma non lasciatevi convincere dagli studi legali che si propongono di supportarvi nella compilazione dei moduli e nella preparazione della documentazione. Se siete sopravvissuti alla preparazione dell'espatrio, sarete certamente in grado di compilare l'application per l'EID a occhi chiusi. In sintesi, una volta entrati negli Stati Uniti con il vostro nuovo visto, scaricate il modulo di richiesta EAD dal sito USCIS, United States Citizenship and Immigration Services. Compilatelo, pagate la relativa tassa, al momento $380, e speditelo all'indirizzo indicato, insieme ai documenti richiesti. Sappiate che per una risposta dovrete attendere 2 o 3 mesi. L'EAD ha validità di 2 anni e può essere rinnovato più volte, sempre pagando la relativa tassa. Un motivo per restare o tornare. Un motivo per restare. 1000 giovani per Finmeccanica. C'è tempo fino al 31 ottobre per candidarsi alla colla lanciata dal gruppo industriale che cerca profili di giovani under 30. Tutte le info a finmeccanica.com/persone/1000giovani. E un motivo per tornare. Stanziati 1,6 milioni di euro che permetteranno agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione di assumere per chiamata diretta ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava e aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Espatriare ma dove? Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di ottobre è Europa, America o Asia? Quali sono le nuove mete di espatrio? Dove state orientando le vostre scelte di emigrazione? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.